Claudio Cacamella. Ah, Famone! Luca Bene di Biombo! Che è frio? Che famo? Luca più Game Master! Vai, che non esegui, la boomerang, vai, vai, cazzo, mi dammi la fatica di presentare a me, che è buona. Ah, cazzo. Vai, gli è tazzina, vai. Ma se si arripa in mia, tu, me cosa si è appigliato per arripa in mia? Claudio mi ha detto è ultima, più che ultima. Cosa devo dire più a te, quella Claudio? Che te l'ha detto Claudio? Ma zitta, zitta, mi mando un messaggio, vedi, di là leggendo. Di là leggendo, zitta. Vai, fine, vai, macco. Macco! Ma sei più master che grigio o che grigio che master? Ah, me la scrivi a zitta. Perché non si viene di becchini, mi appena la misura. Vai andare a me, cazzo, siamo un'altra capitola di vostro capacca con di vostro. Io con la porta non ti posso favorizzare. Ehi, quando la vengo da giudizio, intanto non fai grido che ne è buono, manco di chissà. Vai dai, va. Vai dai. Luca la Cacamella! Che lu... Famone! Luca, cane velato! Piove, la gatta non si muove. Luca, Game Master! Luca, che è sotto Master? Luca, va! Comunque, mi sono stato stazionario, quanto è una bagnata, ma così muovi. Però nel 45 ci siamo 1,7. Perché altrimenti ho messo bisogno di tagliarlo un pezzo. Adesso appena lo sento, lo faccio spiegare bene, si taglia un pezzettino la punta. Dice che poi risuona quasi su tutte le bande. Ma anche se è 1,5, 1,4, vabbè, tanto non devo attaccare niente io. Ma lo stup controllato là. Per vedere dove risuona meglio. Lo abbiamo girata rigirata con Antonio, niente da fare, se di più mi salivano. In questa pistone va bene, vai adesso. No, non mosso, no, lascia perdere, c'ha uno stub di regolazione, là che abbi l'angolazione. Lo stub abbiamo regolato, sì, più lo tira, allora, chiuso, inizia adesso già a 2, ma non lo tira, scendono, affinché il lago del... No, si mette, ma così muove. Però le canaliate ce li ho, infatti l'altro non lo stava spiegando che bisogna tagliarla. Ma se la tagli... Bisogna vedere se poi ti risuona bene sul 10. Se l'ha fatto Antonio vuol dire che risuona bene, no? Cosa ne dici? L'ha fatto con l'analizzatore, credo, perché non ne ha. Cioè, l'ha fatto vuol dire che lo sa, no? Non è un imbecille. Cosa ne dici? Cosa metteva l'analizzatore di spettro? Analizzatore di antenna, non di spettro, non metterà nulla. Vabbè, adesso vediamo. L'ha fatto lui e dice l'ha risolto, cioè anche lui le stazionarie alte. Taglia. E poi alla fine sono 30 euro mesi, andava, arriva in mezzo a quella tra mondezza, se ne va fotti. Se vai 1,7 con quanti watt? Un 5 watt? E cosa ho 5 watt? Figurati, si pone i watt questo sì. E cosa ho 5 watt? No, 10 watt da questa, 12 watt da questa radio. Io penso che ho 5 watt, ma così muove. No, badati di cazzo, Luci. Ma ha girato così, all'improvviso. Comunque il telefono l'ho venduto a 100 euro. È buono. Cazzo buono, se lo volevo. Cioè è nuovo il telefono, è usato ma è nuovo. Tutto bello, c'è un graffio. Ma senza garanzia. Senza garanzia non vendendo. Allora su eBay, se lo vuoi così costa, c'è la garanzia anche. 2 anni. E tu della Game Master, ne vuoi 100, di me non la dà. E come si chiede col telefonino? Di me non lo dà. Cazzo vuoi pure la garanzia? Tu la garanzia me la dai dalla Game Master, a me 100 euro. Io ti ho chiesto la garanzia, tu non mi hai detto che mi davi la garanzia. A te. Anche voi chiedi agito. E tu non mi hai mai risposto. Ma che cosa? Lo scontrino, ti ho detto dammi lo scontrino, non mi hai mai risposto. Qual è del telefono? No? Te lo posso, non me lo può dare perché c'è il televisore anche, capito, in mezzo. Cosa mette un televisore? E un telefono, posso regalare pure la misurina, non mette nulla. Gli do la fotocopia dello scontrino e a loro deve risultare il telefono, capito? Deve risultare il telefono, cosa mette un televisore? La fotocopia è dove devi dare, si può dare un telefono con la garanzia. E se li si faccia, cosa dice? No, io ho tele... scontri non te ne do perché c'ho il televisore. E allora mi attacca un drago. Che si rifaccia? Comunque tu me la dai la garanzia della Game Master se io te la compro, me la dai una garanzia. Che mi scontri non mi hai dato. Vedi. Cioè io mi dico una cosa, magari cazzo, magari non manco funziona, per dire, no? O male, da voi che mi si fascia? E sta giù un po' di sentuero. Guarda, tranquillo, il suo telefono è perfetto, fidati di me. Tu ti solo fidati di me, boh. Sì, ma se fra un mese mi si fascia? Tu a me cosa ridi? A me do ridurre di là, e lui, visto che ha la garanzia, se lo può già consare? Non credo. Ma anche se non avessi la garanzia, non avresti preso uguale, cosa cambia? No, con la garanzia, certo, tu dammi la fotocopia dello scontrino. Tu non mai, praticamente mai detto di no. Allora non ve ne è garanzia. Scusa, No, la garanzia c'è, cosa c'entra? Ti rispondo io per la garanzia. Mi arrangio io, cosa c'entra? Al limite si va con il... No, questo qua mi faccio dare il foglio direttamente. Ma comunque gliela posso anche chiedere la fotocopia, non è un problema quello. Questo non è un problema. Il problema è che io ti ho fatto una domanda. Se tu mi vendi quell'antenna a me, tu me la dai una garanzia? Non me la dai, allora che cazzo se la compro l'antenna? Se magari è già usata pure. Anche se è nuova, ma è sempre usata. Un conto è comprarla e usarla, un conto è comprarla e non usarla. Garanzia non ve ne è. Cioè non ve ne è a chi non ve ne è, non è a chi, no, a chi non ha giù io. Capito? Non ve ne è garanzia. Allora, se non ve ne arriverà a mira. È vero, con 100 euro sempre. Se non vuoi la comprare nuova, ce l'hai 170, 180, quello che costa, la compro e poi mi dice, però lui è nuova, compratela nuova. Chi che non è stata mai piazzata? A chi va tutti l'adesivo ancora attaccati? Io l'ho già piazzata una di, fa fare il suo che ti ha giudito e ne ha giudicato. Beh, anzi, la pazza si soffitta che se no si entra l'evasotto, si infonde un cazzone da un macello, dai. Dai, ci sentiamo dopo che ce la butto in soffitta. Buttati anche tu dentro la soffitta. Dai, dammi 10 minuti che secondo come piove qua, passa l'acqua sotto la tettoia e mi bagna il cartone. Capito? E se la devo spedire poi è un casino, dai. A dopo. Strada Zizi, eruvu. Ah, Belinguer. Ehi, che mai? Dammi che sei. Andiamo qui, andiamo. Chi è sta? Andiamo a te, andiamo. Rovi, poco fa, vicino a casa tua, Gio Mari. Poco fa, adesso. Sono andato al Cona da fare a prendere due cose. Ehi, Se ne fa l'endiraria. Boh, andiamo qui, andiamo. Chi è te? Andiamo qui, andiamo. È nata la pioggia, mi hai visto Gio Mari? Quindi quelle belle giornate, calde e calde. Vabbè, però non ce n'è, la pioggia è fastidiosa. A ciò caro Fandi. Ah, guarda giù Gaio, no? Niente. Lasciala fare, dai. Lasciala fare, infatti ha messo acqua per cui. Cazzo. Lasciala fare, ce la fa peggio. Già sei in caldo, per cui è tranquillo, va. Ah, beh, sì, ciò. Certo sì, la salva tante tempisuglio. Ettore, non sei servizio. Ah, è troppo presto, eh. Ho fatto un bel vento stamattina, mezzogiorno, così, un bel vento qua, Poi c'ho anche l'albero, un attimino Mari, c'ho anche l'albero vicino, ma non mi ha rotto l'antenna. Da forza hai messo, sì? Sì, l'ho anche ancorata, dai, diciamo, già va bene. Io la volevo mettere sul tetto, Gio Mari. Penso che più, Beh, sul tetto va più bene, dai. Va più bene, per cui... non tutto si può avere. Capito? Non tutto si può avere. Adesso vediamo quando sarà. Tempo permettendo, sul tetto. Con un palo di qualche metro. Giusto per... così non sta a mettere piedi. Poi se ne cade, ce ne cade sul tetto. Va bene, ma... Vabbè, che mi sto guardando qui, e lui, ci sentiamo dopo. Ehi, ciao Giovanni, a dopo. Luca, carina mia! Claudio Perivella! Luca, manicomio! Claudio, sei morto! E ma è piovendo sta lì. Sto 10 minuti poco fa, capo su 4 ciurati. E come? Sì, ma questo comunque è calmato un po', come è calmato il vento mi farà dall'aria. Ehi, ma domani c'è bella giornata. Non è un problema, infatti. Ha caricato, adesso ha scaricato, poi domani è bella giornata. Sì, forse ho give up, là, che se ne va furti. Mi, sto entrando a farmi una doccetta. A frappè, arrivo subito. Ehi, ci sentiamo dopo. Sì, per Luca Benivella, beh. Luca, messa in moto. Va bene, non hai il segnale Massimiliano. No, però apri bene lo squelci, ti sento benissimo. Non va bene. Quando arrivi qua, arrivi da tutte le parti. Prova a vedere. Sempre senza segnale, sì. Tu immaginati cosa fa quell'antenna piccolina della Comet. Una cannonata, è veramente. Non è quella lunga lunga? Ma va bene tutte e due. A me quando mi apri lo squelci, io ce l'ho squelci a metà e quindi devi avere forza per aprirlo, eh. Perciò apri lo squelci, segnale non ce n'è, però va bene. Sì, alla grande Massimiliano, non c'è problema. Magari non arrivo. Claudio, mi senti? Sono dentro casa però, eh. Certo, non arrivi. Santiago 5. È in orizzontale? Vedi un po' così, in orizzontale. Sono dentro casa, mi, capito? Va bene, va benissimo, alla grande. Aspetta un attimino che apro il baccone. Cla. Prova. Dai, la sto puntando verso la chiesa, è puntata, dai, in orizzontale. Dimmi come va meglio. Va benissimo, alla grande. E in verticale perdo? Guarda a vedere. No, diciamo di no. Ah, uguale. Aspetta che vado in terrazzo allora a vedere se mi sente Massimiliano. Claudio, mi senti? Sono in terrazzo adesso, eh? Sì, adesso è più forte. In terrazzo in posizione orizzontale e adesso posizionata in verticale. In verticale sì, on air. Ah, così in verticale, polarizzata verticale, on air. Guarda, adesso l'ho girata, orizzontale. Orizzontale 6-9, verticale on air. Beh, ma va bene. Ma Massimiliano, acceso c'è il PMR? Eia. Sto provando verso Massimiliano, adesso è girata verso Massimiliano. Sempre on air sei qua. Anche così girata verso i punti. Sì, sì, rispondi a Massimiliano. Ma è 27. No, è qua. Ma io sono in terrazzo, dai che me ne entro, che sta di nuovo iniziando a piovere. Veglia. Non lo sento io Massimiliano, sei in PMR. Ma se arrivi qua, come mai non arrivi da lui? Ma chiamando sta perché? Ma sei sicuro che l'hai buttata dell'Antaeddo? È sempre on air qua, sei sempre fondo scala qua. Veglia. Vai Massimiliano, prova. Sentito l'hai? Lu, sentito l'hai? No, in PMR niente. Vabbè, ce l'ho quel C'ha 5 però. Cazzo, non si arrivi in oghi? Aspetta, vado in sala a vedere, magari puntata verso... Aspetta. Vabbè, ma è di direttiva, arriva a fondo scala qua quando la gira. Quindi se la gira verso di te dovrebbe sentirti, no? Beh, qua arrivi tu, quindi non ci sono problemi. Claudio Petisella. Luca Garganella, vai al 10 Lu, no al 20 Lu, al 20, canale 20 Lu. Samone. Oh Cla, io mi sono assentato, dai che sto preparando la cena e poi mi prendo il tram, dai. Nel caso se ci siete dopo da casa, ok, ciao. Va bene Luca, va bene, ci sentiamo dopo, ciao, pace e chiuso. Chi è? Come chi è? Babbo Natale, da giù tu va bene. Ah, vabbè, mi stavo luce accesa, scusa, lo stavo spegnendo, capito, gaba gaba. Perivella! Perivella! Ma sai che non dici Perivella? E quel pieno di anticorpi, mi sentivo Perivella. Dai che sono sul 20, ci sentiamo dopo. Via, ciao. Maria.